Il mostro si dà da conoscere. 12 gennaio. Il poveretto qui. Non ci sono nuove difficoltà. Vista l'ombra e gli 11. 13 gennaio. Mi svegliai per una stretta al mio braccio destro, il poveretto si piegò su di me. La sua testa era così vicina che mi pareva di svenire dalla paura. Non posso descrivere quanto sia spaventoso, ma non mi voglio lamentare. Il Signore e Dio non mi manderà più di quanto possa sopportare. Anche la sua faccia è piena di eruzioni e come coperta di una massa attaccaticcia. Finalmente si drizzò in piedi accanto a me. Io incominciai a pregare. Lui disparve. Visto il cavaliere in chiesa. 14 gennaio. Ero molto preoccupata per il ritorno dei miei da Roma. Era ancora da me la sera. Mentre lei stava quieta seduta accanto a me, vedo quel poveretto dietro di lei che mi fissa alla solita maniera. Non mi lascio impressionare, ma a lungo non ci riesco più, è un enorme scoppio di nervi. Così mando L a dormire. Mentre la sto per abbracciare l'ombra si mette davanti a lei, io vedo comunque L attraverso l'ombra. L. È immediatamente vicina, ma non vede niente, è soltanto sorpresa che la voglia mandare subito a letto e mi trova burbera. Appena essa se n'è andata il poveretto si getta su di me. Io tengo duro, non voglio svenire, ma c'era davvero da perdere i sensi. Non posso dire se ho pregato, ero come un arnese incapace di pensare. Riuscivo appena a respirare, tanto mi stringeva. Finalmente mi lasciò libera. Io, perché mi tormenti così? Lui, perché prendi il mio tormento? Io, ma chi sei tu? Lui, uno che cerca. Io. Che cosa cerchi? Lui, riposo, pace. Io, voglio sapere come ti chiami. Lui, Enrico. E disparve. Questa volta ero proprio disfatta, sono comunque contenta che egli parla, il povero Enrico. Nota. Il parroco Sebastiano Ueser commenta, Enrico von M. È una persona storica. Trovai il suo nome come quello di Egolfo e Barbara nei registri della parrocchia. Egli deve aver condotto una vita feroce. Egli appare per oltre un anno. Ha fondato e lasciato dei lasciti per sante messe annuali, ma la fondazione a causa dell'inflazione è ora sfumata. Per questo feci domandare, se egli sapeva che SS. Messe non sono più celebrate, intendevo celebrate come prima. Il sangue di Cristo scorre per tutti noi, è la sua risposta. L'11 febbraio è finalmente il giorno della liberazione di Enrico. Udì di nuovo quella musica straordinaria. Ma potrebbe anche essere una immaginazione e provenire dalle vibrazioni dei fili telefonici, che passano sotto la mia finestra. 15 gennaio. Enrico è qui a lungo, niente di brutto. Egli incomincia ad essere contento delle preghiere e trovo in lui anche un grande cambiamento della faccia. Mi sembra di conoscere i suoi occhi, ma non posso ancora stabilire di chi siano. L'ombra fu nella mia stanza e non posso ancora dire se è una donna. 16 gennaio. Enrico mi svegliò con un urlo e poi incominciò a gemere paurosamente. Ho pregato con lui, ma poiché continuava a lamentarsi presi la bottiglia con l'acqua dei tre remagi e la sparsi su di lui. Si quietò subito e incominciò a mormorare la preghiera con me, alla fine andò via. Sul pavimento non c'era una goccia d'acqua eppure io avevo vuotato tutta la bottiglia. 17 gennaio. Strano. Durante la notte ho avuto forti dolori, non venne nessuno. Verso le 4 mi addormentai. Alle 6 venne Enrico. Gli chiesi, perché vieni così tardi oggi? Lui, non ti ho trovata. Io, perché no? Sono sempre stata qui. Lui, non eri Chiara. Io, ma dimmi perché quell'aspetto così orrendo? Lui, il peccato. Io, ti ho conosciuto quando eri vivo? Lui, no. Io, sei vissuto in questo castello? Lui, sì, io, quando? Era sparito. L'ombra salì le scale davanti a me. Visto il cavaliere in chiesa. 18 gennaio. E di nuovo qui il poveretto. Egli si gettò su di me, io lo pregai di lasciarmi in pace, tutto inutile. Finalmente si rimise a me piedi vicino a me. Io ero tanto spaventata che mi sarei messa a piangere volentieri. Perché l'hai fatto di nuovo? Lui, per venir liberato. Io, libero da che? Lui, non vedi questo? Io, no. Lui, guardami bene. Poi sparì. Devo aiutarlo a liberarsi dalle sue tumefazioni? Non capisco. Come gli può giovare un sacrificio che faccio per forza? Perché io non lo toccherei mai di mia volontà. 19 gennaio. Devo dire che adesso ho paura da ogni notte. Comunque posso dormire. All'una venne Enrico con un grido. Quale è la cosa migliore che posso fare per aiutarti? Lui, vinci te stessa. E si slanciò contro di me. Fu una cosa tremenda. Ho sopportato quella pena in sacrificio per lui. Finalmente mi lasciò libera. Continuavo a pensare di essere tutta lordata da lui. Invece non si vede niente. Io, devi tormentarmi in questo modo? Lui, sì, io, e chi lo vuole? Lui, io. Io, allora hai ancora la volontà libera? Lui, no. Io, allora perché dici che lo vuoi tu? Lui, mi spinge, perché soltanto tu. Non ho capito il resto, più tardi mi svegliai di nuovo per quella musica. Non riesco a comprendere che cosa sia, è come un canto alla parete vicino a me. 20 gennaio. Egli venne di corsa nella mia stanza come un uragano spinto dal vento. Io ero ancora sveglia, e gli dissi subito, per favore, oggi stammi lontano. Lui, perché? Io, perché non posso resistere. Lui, allora non mi vuoi aiutare? E mi venne subito più vicino. Io non parlai più e chiusi gli occhi. Allora egli posò le sue manacce sulle mie spalle e premette la sua testa sulla mia. Di più non so, era troppo. Dopo, un po' di tempo ritornai in me. Quando posso avere il conforto della Santa Comunione è di nuovo tutto dimenticato. 21 gennaio. È di nuovo così tremendo, solo che questa volta riuscii a non perdere i sensi. Sono diventata così debole perché penso continuamente e con ripugnanza e orrore a questa cosa. 22 gennaio. Andò un pochino meglio. Non riesco più a farlo parlare, potei almeno pregare con lui. L'ombra di nuovo a lungo nelle mie vicinanze, visto il cavaliere in chiesa. 23 gennaio. Enrico ha un aspetto diverso. Non posso ancora dire in che cosa sia diverso, comunque non è più così ripugnante. Sono felice, perché non mi ha più toccata. Io, dimmi se Enrico von M? Lui, sì. Io, perché devi fare una penitenza così lunga? Lui, il peggior peccato. Io, sei andato in giro per il castello per tutto questo tempo? Lui, sì, perché non ti ho mai visto prima? Lui, non ti era ancora permesso. Io, devo chiederti se ti accorgi che le SS. Messe legatorie per te non vengono più celebrate? Lui, il sangue di Cristo continua a scorrere per noi. Nota. Il sangue di Cristo continua a scorrere per tutti noi. quei signori che la pensano diversamente a proposito del santo sacrificio della messa e non credono più alla transustanziazione, non sanno quello che fanno. Poi incominciò a piangere. Io, perché piangi? Lui, perché non posso attingere. Io, e perché? Lui, il castigo. Io, ed io ti aiuto. Lui, sì. Poi ho pregato con lui, non si poteva più fargli dire altro, si fermò tuttavia ancora un pezzo. Mentre io stavo in chiesa la sera, il cavaliere si inginocchiò verso di me e potei vedere quanto era bello e felice. Non ebbi il coraggio di parlare con lui. Questa è una classe di spiriti del tutto diversa, ai quali io non mi posso avvicinare. 24 gennaio. Poiché ho affidato tutto a questi fogli, devo anche dire che sono quasi completamente finita nel mio fisico. E per continuare materialmente dovetti rinunciare ai bisogni dello spirito, non potei andare a messa perché ero troppo stanca. È un metodo di cura capovolto, perché allora mi viene a mancare tutto, e allora salta fuori tutto quello che non dovrebbe, tanta impazienza e una creatura senza carità. Enrico qui 3 volte durante la notte. Adesso ha davvero un aspetto più umano, non più come una scimmia. Non vidi più nemmeno eruzioni. Ho pregato parecchio con lui e ho l'impressione che il De Profundis gli convenga meglio. Improvvisamente mi venne vicinissimo, senza toccarmi, per grazia di Dio. Lui, hai visto? Io, sì. Che hai un aspetto diverso. E da che proviene questo fatto? Lui, ti sei flagellata. E sparì. Io l'avevo fatto, perché mi venne come una ispirazione che ciò gli poteva giovare. Purtroppo io riesco a fare così poco per quei poveretti. L'ombra stava di nuovo sulle scale. Ho udito la musica, è un compenetrarsi e muoversi di suoni di un genere del tutto diverso. 25 gennaio. Enrico rimase qui a lungo, è molto triste, perciò non riuscì a cavarne fuori niente. Le pustole ed eruzioni sono effettivamente sparite. Porta una camicia bruna. La tristezza è scolpita in maniera tanto evidente nel suo stesso contegno, se la potessi descrivere. 26 gennaio. Enrico venne di giorno. La sua vista è più tollerabile di giorno che di notte. La sua testa e il suo volto sembrano un mosaico di colori messi insieme e proprio la trasparenza fa una profonda impressione. Io gli domandai, perché ieri eri così triste? Lui, non potei venire da te. Io, perché no? Eri pur stato qui. Lui, erano troppi gli altri intorno a te. Io, non ho visto niente. Chi era? Lui, anime. Io, eppure io ho pregato con te. Lui, tu eri divisa. Io, per questo oggi sei venuto così di buon'ora? Lui, sì, effettivamente ero stata in pace tutta la notte e fu un vero sollievo. Mi opprime però il pensiero che altre anime mi aspettano. La potrò continuare a sopportare con l'andar del tempo questa situazione? Ma dove la mia fiducia in Dio? E il mio spirito di sacrificio? L'ombra mi ha proprio perseguitata tutto il giorno. È una figura di donna ma non ancora riconoscibile. Enrico venne di notte per poco tempo. Ho di nuovo udito quella musica, mi rende alquanto triste. È una cosa così indefinita. È fantasia o meno, non lo posso dire, ma lo scrivo. Invece non voglio più scrivere quello che faccio per le povere anime, perché è logico che faccio qualche cosa, e dovrò fare sempre di più. 28 e 29 gennaio. Dolori, quindi pace. Durante la notte volli fare una prova ed ho chiamato Enrico. Ma inutilmente. 30 gennaio. Molto strano. Venne Enrico e mi fece un cenno di andare con lui. Finsi di non vedere, Allora mi venne molto vicino e mi disse, vieni con me. Fu tutt'altro che simpatico e non mi mossi. Allora egli incominciò ad agitarsi tanto che io raccolsi tutto quel poco di coraggio che avevo e andai da lui. Suonavano allora le 3. Egli mi precedette fuori e poi giù fino alla porta della cantina sotto la cucina. Io aprii e scendemmo le scale. Una cosa davvero poco simpatica da fare. Arrivati di sotto mi mostrò un angolo e sparì. Stavo in piedi davanti al muro. Non vidi nulla. Che gioia, che c'è dappertutto la luce e potei accenderla, altrimenti sarebbe stato una cosa ancora più tremenda. È meglio non descrivere quali tremendi pensieri colgono una persona in simili circostanze, eppure bisogna sopportare. Ma purtroppo io sono sempre ancora troppo io. 1° febbraio. Enrico qui durante la notte, muto a tutte le domande. Ho pregato per lui. L'ombra ora è ben riconoscibile. È la vecchia signorina cameriera Gianette, che fu per 40 anni con la mia nonna. La vidi passare oltre accanto a me. Quando tornata a casa dalla Santa Messa, volli aprire la porta della mia stanza. La chiave si girò nella toppa e la maniglia in mano. E chi c'era? Enrico. Mi sono proprio spaventata. Io, ho appena tanto pregato per te. Te ne sei accorto? Lui, sì, io, allora dimmi, c'è qualcuno sepolto in cantina? Lui, no. Io, e allora perché mi hai condotto? Lui, perché ho peccato lì. Io, hai ucciso qualcuno? Lui, no. Continua a far domande. Io, ti fa bene se io lo so. Lui, sì. Io, è un peccato contro il vicomandamento. Lui, sì. Io non voglio più sapere altro, che cosa posso fare per aiutarti? Lui, prega oggi. Io, ma perché proprio oggi? Lui, perché sei tutta pura. Io, vuoi dire perché ho ricevuto i santi sacramenti? Lui, sì. E disparve. Io scrivo ciò solo per obbedienza, non voglio perdere un pensiero. Solo che non mi vengano immaginazioni, altrimenti la purezza è bella e sparita. 2 febbraio. E di nuovo la musica, che mi svegliò. Più tardi venne Enrico. Gli domandai, per quale motivo devi andare in giro così a lungo? Non ti sei potuto confessare? Lui, sì, perdonato ma non ho espiato o fatto la penitenza. Io, mi puoi dire perché tua cognata Barbara aveva una ferita alla nuca? Lui, no. Io, vedi anche altre anime nel castello. Lui, io posso vedere soltanto la mia santuera, non si capiva, forse voleva dire sfera. Io, adesso non mi troverai più, perché io vado via, ma continuerò a pregare per te. Lui, non c'è spazio. Io, in che modo? Lui, per la misericordia di Dio. E sparì. Certamente è Dio che lo vuole, mi ha tutta acceso il pensiero che posso fare qualche cosa per lui. Come mi sono comportata in modo deplorevole tutto questo tempo, pensando sempre soltanto a me. Ciò dà all'anima una spinta, che la aiuta a vedere in mezzo alla paura e alla penosa sofferenza. Il buon Dio mi manda da fare. Oggi mi trovo in una situazione spassosa, completamente sdoppiata. Lo spirituale non permette all'umano di alzare la testa, ma sono così abile che nessuno se ne accorge. Devo comunque uscir fuori, ma sono contenta perché io posso confidare tutto a chi mi conosce, anche se qualche volta malvolentieri, perché in fondo la mia anima è proprietà privata. Visto il cavaliere in chiesa durante il Santo Rosario. Incontrai gli amici 11 vicino al monte. Forse Enrico sa qualche cosa su di loro. Domanderò. 3 febbraio. Il cavaliere rimase lì durante quasi tutta la messa, tanto da farmi pensare che gli inservienti dovessero sbattere contro di lui. Enrico fu qui solo per poco. 4 febbraio. Enrico rimase quasi tutta la notte. Io gli dissi che dovevo andar via ed ero convinta che non mi avrebbe trovata. Allora mi disse, la via è illuminata. Nota. Commento del suo direttore spirituale Sebastiano Ueser, il viaggio avvenne fra il 4 e il 7 febbraio. Ciò che segue avvenne a SCH. Esattamente 100 km lontani dal castello di Val,